Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La guerra è proprio la scelta per le ricchezze. Facciamo armi, così l'economia si bilancia un po' e andiamo avanti col nostro interesse. C'è una parola brutta del Signore: maledetti questi che operano la guerra, che fanno le guerre. Sono maledetti, sono delinquenti. Beh, al di là che si crede, sia credente o non sia credente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che si apprezzi o no il Papa, o che si sia pacifisti, guerrafondai, insomma, è difficile dargli torto, anche perché questo mi dà l'occasione per dirvi che stasera, fra le tante cose di cui vi parlerò come sempre, analizzeremo questi particolari rapporti intrecci tra alcune nazioni che fanno sì che per alcuni, diciamo, possiamo definirli paradossi di scambi, di piaceri, di armi, di soldi e di interessi vari, Insomma, viene frenata una vera, efficace lotta all'ISIS. Scopriremo vari paesi che si difendono dal terrorismo, ma allo stesso tempo esportando armi e ricevendo soldi da paesi che invece finanziano il terrorismo. Ci sono veramente degli intrecci molto complessi che cercheremo un po' di analizzare appunto stasera qui Effetto Notte, così come cercheremo anche di fare un ritratto di Abaoud, questo terrorista che è stato considerato la mente degli attacchi di Parigi dello scorso venerdì. Non era un emarginato, non era un qualunque fanatico pescato così, contagiato nelle banlieue, nelle periferie francesi o in altre zone marginali. No, era di famiglia benestante, uomo intelligente con una spiccata indole violenta. Anche di lui, anche a lui dedicheremo un certo spazio, e poi parleremo, anche per staccarci un po' anche da questi argomenti, di una novità che è emersa nel giallo dell'imprenditore scomparso nel bresciano. Un giallo nel giallo continua a essere, naturalmente, per chi si occupa di appassionato di queste storie, è avvincente, diciamo, se si può usare questo aggettivo in una vicenda tragica del genere. Però davvero come si può capire come il male si possa spingere oltre ogni immaginazione, con quale finezza. Quindi un sacco di cose anche questa sera qui Effetto Notte, però vi vorrei chiedere, sono arrivati i dati Istat, il rapporto Istat sugli italiani, fra le varie cose, secondo i dati sono diverse le preoccupazioni che assillano le famiglie italiane lungo il paese nel 2015, diverse a seconda delle regioni. Al nord e al centro quello che fa più paura agli italiani e alle italiane è il rischio di criminalità nel proprio quartiere, attorno a sé. Oggi poi avete sentito i vari allarmi di cui parleremo, a Roma, a Milano, per fortuna risultati infondati, mentre al sud, nonostante la crescita anche lì di timori per la sicurezza, rimangono prioritarie altre questioni che sono, pensate, quelle di trovare un parcheggio, il traffico, il collegamento con i mezzi pubblici e la sporcizia per le strade. Questo per quanto riguarda il sud. Voi invece da cosa siete principalmente preoccupati? Pagina Facebook di Effetto Notte, lo sapete, sempre lì per voi, anche per aderire senza indugio, per esprimere le vostre opinioni, oppure potete farlo, esprimere le vostre opinioni attraverso gli sms al 349-238-6666, 349-238-6666 per gli sms, e se no c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Cominciamo con la Francia. È ufficiale, Abaoud, la mente degli attentati di Parigi, è morto ieri nell'assalto delle teste di cuoio. Insieme a lui ucciso anche Salah, l'attentatore ricercato. Oggi intanto un nuovo blitz nelle Ardenne. L'allarme del primo ministro Valls, rischio di armi chimiche e batteriologiche. L'Unione Europea intanto blinda le frontiere esterne. Obama assicura: distruggeremo l'ISIS. Tensione a Roma e Milano, falsi allarmi nelle metro per pacchi sospetti e due siriani arrestati allo scalo di Orio al Serio. Medio Oriente, nuove vittime dell'intifada dei coltelli, due morti a Tel Aviv, e il primo ministro Netanyahu dice: come siamo come Parigi, agguato intanto ai militari italiani in Libano. L'inchiesta Rubiter, chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi, l'accusa è corruzione in atti giudiziari. Il ritratto dell'Istat, italiani più soddisfatti della situazione economica ma più diffidenti verso gli altri. Salari, donne indietro di 10 anni rispetto agli uomini, la parità ci sarà nel 2133, lo dice il rapporto del World Economic Forum. Italia al 41esimo posto, al top ci sono invece Islanda, Norvegia e Finlandia. Musica a Torino, grande attesa per il primo dei tre concerti di Madonna. E Partiamo quindi dalle operazioni in corso in Francia, che continuano naturalmente, ma anche nel resto d'Europa, per snidare altri terroristi islamici dopo l'ufficializzazione, oggi vi dicevo, dell'uccisione nel blitz di ieri da parte delle teste di cuoio francesi di Abaoud, la mente degli attacchi a Parigi di venerdì scorso. Nel pomeriggio di oggi è scattato un altro vasto blitz di polizia a Charleville, nelle Ardenne francesi. Nel raid si è sentita una forte esplosione, era il detonatore usato dalla polizia per aprire la porta di un appartamento, la casa però era vuota. Il quartiere della Ronde Couture di Charleville-Mézières, cittadina operaia non lontana dal confine con il Belgio, è stato chiuso al traffico. Non è stata l'unica operazione di oggi questa, però, perché le forze speciali belghe hanno condotto 6 raid a Molenbeek, quello che è considerato il quartiere di Bruxelles, covo di tanti jihadisti. Le azioni puntavano a scovare persone vicino a Bilal Adfi, uno dei kamikaze nei pressi dello Stade de France di venerdì. Non dobbiamo escludere niente, questo è l'allarme che ha lanciato oggi il primo ministro francese Valls, e poi c'è l'appello di Hollande che dice la Francia non deve dimenticare i suoi principi. Non si può escludere il rischio che i terroristi usino armi chimiche e batteriologiche in futuri attacchi, lo afferma il premier francese Manuel Valls parlando all'Assemblea Nazionale dopo la diffusione della notizia che il Ministero della Sanità francese ha disposto l'acquisto di massicce dosi di antidoto del gas sarin, un gas nervino mortale. Agli avvertimenti di Valls fanno eco gli appelli di François Hollande. La France risponderà alla terreur par la force. La Francia risponderà al terrore con la forza del diritto, afferma il capo dell'Eliseo parlando alla Fondazione Chirac. La Francia non può perdersi per vincere la guerra. Risponderà restando la Francia e non permetterà che nessuno venga aggredito per il suo credo, assicura il presidente francese. E mentre anche Europol denuncia la grave escalation della minaccia terroristica e avverte che sono possibili altri attacchi in Europa, Parigi rafforza e prolunga per 3 mesi lo stato d'emergenza e anche il Belgio decide per le modifiche alla Costituzione allo scopo di allungare i tempi del fermo di polizia da 24 a 72 ore. Il Belgio inoltre, quanto spiega il premier Michel, adotterà il PNR, registro passeggeri, su aerei e treni, senza aspettare le decisioni dell'Unione Europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda l'Italia, l'allerta è stata decisamente alzata dopo l'allarme di ieri dell'FBI, che ha segnalato alcuni obiettivi sensibili a Roma e a Milano, tanto che oggi, così forte l'allerta, si sono susseguiti diversi allarmi, per fortuna poi risultati falsi. Ci sono stati gli allarmi a Roma e poi anche a Milano è scattata l'emergenza per un trolley sospetto abbandonato nel metro. Poco prima alle 18 la stazione Duomo della linea gialla è stata chiusa ed evacuata su disposizione della questura per ragioni di sicurezza. La fermata poi è stata riaperta circa 40 minuti dopo. La circolazione dei treni è tornata alla normalità. Insomma, diciamo che è diffusa comprensibilmente una sorta di psicosi ed è stato convalidato il fermo dei 2 siriani bloccati ieri all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo con passaporti falsi e foto di guerra e dell'ISIS. Dichiaravano di essere uno austriaco e l'altro norvegese, in realtà parlavano soltanto arabo. Intanto l'Europa cerca una strategia comune per fronteggiare l'emergenza. C'è evidente nervosismo qui a Bruxelles sulle conseguenze che gli attacchi terroristici di Parigi avranno sulla politica europea. Domani si terrà un consiglio straordinario che riunirà i ministri degli interni. Secondo le prime informazioni raccolte qui a Bruxelles, i 28 annunceranno, tra le altre cose, controlli a tappeto alle frontiere esterne dell'Unione, anche per i cittadini europei che beneficiano della libera circolazione in Europa. Nel contempo, i 28 vogliono rafforzare la cooperazione nell'antiterrorismo e chiedere alla Commissione europea di presentare nuove iniziative per facilitare la collaborazione nell'intelligence finanziaria. Il timore di molti osservatori è che i Paesi membri di Schengen decidano di introdurre il controllo alle frontiere, seppur in via temporanea. Sarebbe un duro colpo alla libera circolazione delle merci e delle persone. D'altro canto, proprio oggi nel Parlamento europeo, Rob Wainwright, il direttore dell'Europol, ha avvertito che nuovi attacchi terroristici sono probabili. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora spostiamoci in Medio Oriente. Nuove vittime dell'intifada dei coltelli, 2 morti a Tel Aviv. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha detto: qui è come a Parigi, chi non condanna l'Islam radicale è ipocrita e cieco. E c'è stato un agguato ai militari italiani in Libano, nessun ferito per fortuna, e la Camera ha dato il via libera alla proroga delle missioni militari italiane. Pensioni, continuano le polemiche sulla riforma delle pensioni, in particolare sulle proposte del presidente dell'INPS Tito Boeri. Boeri risponde ancora una volta alle critiche e rivendica la bontà delle sue proposte. Qui bisogna cambiare una macchina, per cambiarla bisogna che cambiano delle norme che non controlliamo, ma sono delle leggi dello Stato che deve riformare la politica. Così dice ai nostri microfoni il presidente di un istituto che ha un rosso di 9 miliardi di euro, ma niente paura. Le prestazioni che vengono erogate dall'INPS sono tutelate da delle leggi dello Stato, quindi finché non fallisce lo Stato italiano, i cittadini non si devono preoccupare. Nella sua riforma, che riguarda 230.000 pensionati su 16 milioni, ci sono, ricordiamo, il reddito minimo per gli over 55, l'uscita flessibile dal lavoro a 63 anni, il taglio a chi ha la pensione più alta e non ha versato i giusti contributi, come qualche politico spiega. I parlamentari mi attaccano perché proponiamo tagli ai loro vitalizi, incalza Boeri. Baggianate, risponde Brunetta. Poi l'accusa ai sindacati, che sono i paladini dei diritti acquisiti. Infine la riforma Madia, spero venga applicata, adesso è solo una legge delega, spiega. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso i dati Istat: cresce in Italia la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica, dal 43,4% del 2014 al 47,5% di quest'anno, del 2015. Questo lo rivela l'Istat, e restano comunque delle criticità, come spiega Linda Laura Sabadini, scusate, direttrice del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, al microfono di Adriana Fracchia. Per quanto riguarda il nord, la crescita è più forte per il rischio di criminalità, anche come effetto dei tanti anni in cui durante la crisi la criminalità predatoria è cresciuta, furti d'abitazione, rapine e anche scippi, borseggi e così via. Mentre nel sud un problema grosso che emerge è quello della irregolarità nell'erogazione dell'acqua. Ecco, a questo proposito vi dicevo all'inizio di altri dati Istat, si parlava appunto di preoccupazioni che variano da parte degli italiani a seconda dell'area della penisola. Al nord e al centro il rischio di criminalità nel proprio quartiere diventa il problema più segnalato, mentre al sud, vi dicevo, nonostante la crescita anche lì di timori legati alla sicurezza, rimangono prioritarie altre questioni come la ricerca di un parcheggio, il traffico, l'acqua, come diceva Linda Laura Sabatini, e poi il collegamento coi mezzi pubblici. I vostri timori quali sono? Potete scriverlo sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 attraverso i messaggi. Parliamo adesso dei salari. Le donne sono indietro di 10 anni rispetto agli uomini. In media le donne hanno stipendi che sono indietro appunto di un decennio, ossia guadagnano quanto i colleghi maschi guadagnavano nel 2006, solo che le donne lo guadagnano oggi quella cifra. Il trend attuale mostra che per un recupero ci vorrà del tempo, almeno un secolo, pensate. La parità di salari sarà raggiunta infatti nel 2133, quando noi non ci saremo più. A rivelarlo è il rapporto del Global Gender Gap del World Economic Forum. L'Italia non è un'eccezione, purtroppo. Nella classifica stilata si piazza in 41esima posizione, con $89 guadagnati da una donna per ogni $100 intascati da un uomo. I paesi dove questa differenza invece è minore tra uomini e donne a livello generale sono Islanda, Norvegia e Finlandia. Tanto per cambiare, gli Stati Uniti sono piazzati al 28esimo posto, la maglia nera invece ce l'hanno Yemen, Pakistan e Siria. E poi per la cronaca, l'inchiesta Rubiter è chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi, l'accusa è corruzione in atti giudiziari, a processo anche Karima Rubi, appunto. PM di Milano chiede di processare l'ex premier e altre 30 persone, tra cui 21 ragazze delle serate ad Arcore. Una notizia anche che riguarda il doping relativo alla Russia: gli ispettori della IAF, dell'Agenzia Internazionale Antidoping, che hanno cominciato a monitorare il lavoro della Russia in materia di lotta al doping, non termineranno il loro lavoro prima della fine di marzo 2016. Questo significa, ha ribadito oggi la Federazione Mondiale di Atletica, che la nazionale russa non potrà prendere parte ai mondiali indoor in programma a Eugene negli Stati Uniti dal 17 al 20 marzo del prossimo anno. E a proposito di sport, positivo invece c'è da segnalare la storia di Nadia Nadim, stella del calcio femminile in Italia, afghana, naturalizzata danese, 28enne, è fuggita da Kabul dopo la morte del padre, che era un generale afghano sequestrato e giustiziato nel 2000. Martedì è scesa in campo in Champions League contro il Brescia. E per chiudere parliamo di musica e sicurezza, anche proprio in base a quello che abbiamo detto più o meno finora. La strage del Bataclan a Parigi pare non abbia fermato la voglia di musica, almeno questo è quello che sta accadendo a Torino, penso, adesso ci faremo dire. Al Pala Alpi Tour si tiene il primo dei tre concerti di Madonna, e chiedo a Miriam Korjat come va lì. Miriam? Buonasera Roberta. Ciao, qui Miriam. Procede tutto bene, tra pochi minuti dovrebbe cominciare il concerto di Madonna, una giornata di controlli eccezionali che però sono andati insomma per il meglio. Tutti quelli che hanno acquistato il biglietto sono riusciti ad entrare, sono adesso dentro al Palalpitour. Misure di sicurezza decise dalla prefettura di Torino e scattate già in realtà da ieri, con posti di blocco delle forze dell'ordine intorno all'area dove si trova proprio il Palalpitour. L'eccezionalità dei controlli, che sono stati paragonati a quelli messi in campo per l'ostensione della sindone della passata primavera, si sono visti anche per la decisione di effettuare controlli su tutti i biglietti, che in tutto sono 33.000 per le tre date, controlli che sono stati fatti in particolare sui 1.200 che sono stati acquistati dall'estero, quindi come dire, dei controlli assolutamente eccezionali. Il clima comunque è stato sereno per tutta la giornata, i fan sono stati molto disciplinati, hanno aspettato per ore al freddo. Qui a Torino sono giornate di freddo molto rigido e di nebbia, quindi insomma sono state particolarmente dure anche per i fan, che si sono messi in coda fin dalla notte scorsa con alcune tende montate davanti al palazzetto. Ma come dire, i controlli non si fermano qui, non solo perché sabato e domenica ci aspettano altre due date dei concerti di Madonna, ma perché sabato sarà una giornata particolarmente intensa, a partire dalla visita di Renzi, che è atteso a Venaria per l'Italian Digital Day, ma anche in serata, perché allo Juventus Stadium si disputerà Juve-Milan. Qui la fine settimana già... intenso insomma. Esatto. Grazie Miriam Korjat. Ciao Miriam, a quanto pare. Ciao. Grazie. A quanto pare la sindrome Bataclan per il momento non ha contagiato. E a questo proposito, c'era Madonna, qui Madonna in concerto stasera a Torino, poi farà altri due concerti. A proposito di personaggi, grandi personaggi americani, vi voglio segnalare che domani esce in edicola il magazine di idee e di stile di vita del Sole 24 Ore, Lifestyle. Si arricchisce, si chiama Il, lo conoscete, ma si arricchisce di nuovi contenuti culturali, di nuove sezioni, di nuove rubriche. Ha quattro copertine diverse e ci sono appunto quattro personaggi tra i più in vista dei personaggi americani. Questo domani. Intanto, prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, volevo vedere i vostri messaggi, anche i vostri timori, quali sono. Momure Conver, che non ho capito se scrive dall'Italia o dalla Francia, perché sapete che Effetto Notte è seguito in tutto il mondo, dice: sono appena fuori da un bar che ormai chiude presto perché dopo una certa ora nessuno più è in giro per strada, quindi la preoccupazione per un atto di violenza anche del singolo folle impazzito esiste. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Note. Tra poco cominceremo a capire quali sono i paradossi che impediscono di fare veramente una lotta efficace, che da tempo era da fare, contro l'ISIS. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco parleremo ancora del dopo attentati a Parigi, ma in particolare di un ritratto di quello che è considerato la mente di questi attentati a Parigi, che è stato ucciso, è stato ufficializzato oggi, che è stato ucciso ieri nel blitz delle teste di cuoio nel quartiere di Saint-Denis. Poi capiremo quali sono i paradossi, appunto vi dicevo, che frenano una lotta efficace all'ISIS. Intanto volevo guardare ancora i vostri messaggi su quali sono le vostre preoccupazioni. Abbiamo sentito prima i dati dell'Istat, che variano a seconda delle zone d'Italia, tra nord, centro e il sud che si distanzia. Franco da Roma scrive: ancora mi preoccupa il lavoro e adesso dopo le stragi di Parigi il turismo subisce il calo e la ripresa non arriva. Effettivamente anche il ministro Poletti del lavoro nei giorni scorsi ha detto: certamente questo clima di tensione non aiuta l'economia. E qua, anche se abbiamo visto che le borse, ma quella forse è una questione diversa, diciamo la finanza. Poi Balanzone si firma e fa lo spiritoso dal 349-238-6666 per alleggerire, dice: in tempi di terrorismo islamico il concerto di una cantante di nome Madonna è un toccasana. Mentre Floriano dice: la preoccupazione sulla pagina Facebook di Effetto Notte, la preoccupazione maggiore è per i giovani che non vedono un futuro decente. Noi degli anni 60-70 dovevamo adattarci per cercare un lavoro, ma si trovava, le prospettive nostre erano di migliorare le condizioni economiche, ora non è più così, effettivamente è difficile negarlo. Quindi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 su quelli che sono i maggiori timori, preoccupazioni che sentite attualmente. Adesso vi ricordo i titoli più importanti e poi cominciamo con gli ospiti. Francia ufficiale, Abaud lamenta degli attentati di Parigi, è morto ieri nell'assalto delle teste di cuoio, insieme a lui ucciso anche Salah, l'attentatore ricercato. Oggi sono stati nuovi blitz nelle Ardenne. L'allarme del primo ministro Valls, primo ministro francese, che dice c'è un rischio di uso di armi chimiche e batteriologiche. Intanto Obama assicura distruggeremo l'ISIS. Tensione a Roma e a Milano con vari falsi allarmi nella metro per parchi sospetti. Due siriani intanto sono stati arrestati allo scalo di Orio al Serio. In Medio Oriente nuove vittime dell'intifada dei coltelli con Netanyahu, primo ministro israeliano che paragona la situazione in Medio Oriente a quella di Parigi. E poi il ritratto dell'Istat che dice italiani più soddisfatti della situazione economica ma più diffidenti verso gli altri. Mentre a Torino grande attesa per il primo dei tre concerti di Madonna. Quindi mentre prosegue la caccia ai terroristi che hanno provocato il massacro di Parigi, è ufficiale, vi dicevo, lo jihadista Abdelhamid Abaoud, ispiratore, mente degli attacchi nella capitale francese dello scorso 13 novembre, è morto nell'assalto ieri delle teste di cuoio nel quartiere di Saint-Denis, assalto a questo covo di terroristi. Non era un fanatico qualunque, pescato tra gli emarginati delle banlieue francesi, il suo nome tra l'altro è collegato ai principali attentati islamici in Occidente ed era stato segnalato ai servizi dell'intelligence francesi. Sapete che ci sono molte critiche nei confronti dei servizi segreti francesi. Ne parliamo con Roberto Bongiorni, che saluto. Ciao Roberto. Buonasera Roberta. Inviato speciale del Sole 24 Ore. Anche oggi tu hai fatto un bel documentato ritratto di questo personaggio, come lo vogliamo chiamare, Roberto. Quindi non emergeva dal disagio sociale, era figlio tra l'altro di una famiglia benestante, no? No, tutt'altro, come capita peraltro con molti foreign fighters, questi aspiranti jihadisti che partono, è un fenomeno trasversale, ci sono anche quelli delle banlieue, ma ci sono anche persone abbienti che però hanno visto contagiati dalla propaganda dell'ISIS nella realizzazione dello Stato islamico, una realizzazione di un sogno che nessun movimento estremista ha mai realizzato sulla terra, è stato attratto da questo fantasma di questo Stato. Però Abdelhamid Abaoud è un fantasma inafferrabile. La cosa che più a me ha inquietato, per un giudizio personale, è come questa 28enne dalla barba scura e lineamenti quasi dolci, mago, sia potuto passare avanti e indietro tra l'Europa, la Siria e l'Iraq per arruolare jihadisti per compiere attentati in Europa e sia coinvolto in così tanti attentati o tentati attentati, sono storie innumerabili, ma almeno negli ultimi 8 inosservato, si è riuscito addirittura a portare il fratellino di 13 anni in Siria nel 2013 con sé attraverso le frontiere per farlo trasformare in jihadista. Ecco, questo è un aspetto piuttosto inquietante che ci deve fare riflettere, non dico sulle falle, ma sulla facilità con cui questi foreign fighters vanno in Siria, ma con cui possono anche poi rientrare in Europa. E continuare a girare. Infatti, come dicevo prima, scrive Le Monde, quotidiano francese, puntando il dito contro l'antiterrorismo francese, l'inadeguatezza dei servizi segreti, dice che era già stato segnalato, già avevano documenti il Ministero dell'Interno e della Giustizia francesi su Abaoud, e pare che anche dagli Stati Uniti fossero arrivate delle segnalazioni relative al rischio che potesse coordinare degli attentati, no? Sì, sì, questo senza dubbio è segnalato, ma come però l'attentato sul treno, se non sbaglio, Amsterdam-Parigi del 14 agosto, il sospetto era stato segnalato in Spagna, in Francia e credo in Belgio, adesso non vorrei sbagliare il paese, tutti l'avevano individuato, ma poi le intelligence dei rispettivi paesi non si erano scambiate le informazioni. Ecco, qui bisognerebbe auspicare un maggiore, spero dopo gli attentati di Parigi, coordinamento, perché altrimenti rischiamo veramente di diventare un bersaglio. L'ISIS peraltro ha capito che gli stati non si scambiano troppo volentieri le informazioni, anzi all'interno degli stati ci sono agenzie diverse di sicurezza che rivaleggiano. Che è folle, quindi, folle, veramente folle. È folle, ma è un po' quello che è successo con l'11 settembre in America, attenzione, c'erano le due agenzie, l'FBI, la CIA, e così che non si scambiavano poi le informazioni. E la cosa interessante è che comunque queste persone, qualora l'intelligence fosse più coordinata, potrebbero essere individuate, quindi veramente occorre uno sforzo maggiore che penso che adesso stia iniziando, perché il pericolo è davvero reale. La cosa che a me sorprende di più è che l'entrata di questi foreign fighters, per esempio che è entrato col passaporto finto in Grecia sull'isola di Leos. Ecco, com'è possibile che nel momento in cui quando entra lui questa notizia non venga comunicata subito a Parigi, a Roma, a Berlino, in Spagna? Ecco, queste sono ancora delle falle imbarazzanti e pericolose per l'Europa. Decisamente imbarazzanti e pericolose. Le Monde, tra l'altro, cita Renzi, gli riconosce che aveva chiesto già a gennaio scorso un'agenzia di informazioni che fosse europea. Grazie Roberto, buongiorno. Ciao Roberto. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Oggi pensiamo veramente che bombardare Raqqa, dove vivono 200.000 civili, sia la strada? Pensiamo veramente che, come ahimè sta facendo in queste ore il governo italiano, ovvero sta inviando, comunque stiamo vendendo delle armi all'Arabia Saudita, che le sta utilizzando in queste ore, armi italiane, sullo Yemen, tra l'altro contravvenendo una legge... È un'accusa di correità politica, quantomeno, rispetto al fenomeno. Come si può dire in giro io voglio combattere il terrorismo se comunque il tuo governo, il tuo paese continua a sostenere quei paesi che indirettamente sostengono il terrorismo? Ecco, questo è Di Battista, esiste il Movimento 5 Stelle, in un'intervista al Corriere della Sera, che ci introduce a un'altra questione che è imbarazzante e pericolosa, direi molto di più, ma ci aiuterà adesso Alberto Negri, inviato speciale di Sole 24 Ore, a definirla. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Che ha scritto un bellissimo pezzo oggi su Sole 24 Ore, dove parla della Saudi Connection. Ci spieghi che cos'è, Alberto? Molto semplice, è molto semplice ed è una lunga storia, ma è un pezzo che avrei potuto scrivere un mese fa, un anno fa, 5 anni fa, questo stesso articolo, perché descrive semplicemente il fatto che l'Arabia Saudita, è noto notorio che alcune delle sue fondazioni private sono tra gli sponsor del califfato, ma non solo, che è il paese che ha sempre in qualche modo sponsorizzato i gruppi radicali islamici pur di tenerli lontano da casa sua. Beh, insomma, l'Arabia Saudita è un paese con cui l'Occidente dovrebbe fare i conti, ma invece fa soltanto affari. Soprattutto con gli Stati Uniti, no? Ma insomma, ha venduto 100 miliardi di dollari di armi in 5 anni l'America a Riyadh. Come si può pensare che gli Stati Uniti facciano la guerra al califfato quando uno dei suoi principali clienti di armi e alleati sponsorizza il califfato stesso? Lo ha detto chiaramente l'ex ministro saudita a Kerry, addirittura Daesh, l'acronimo arabo usato per il califfato, è la nostra risposta sunnita all'influenza sciita in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein. Ma queste sono cose risapute. La meraviglia è che qui ci si meravigli al punto che si può pensare che c'è molta ipocrisia. Senti, tra l'altro, adesso io non so se girano appunto vari documenti, articoli eccetera, che parlano anche dell'Italia, grossa esportatrice nei confronti del Qatar, che a sua volta sostiene più o meno indirettamente gli integralisti, però tu scrivi in questo pezzo che il rapporto e gli accordi di affari, insomma, tra Stati Uniti e Arabia Saudita sono talmente forti, talmente stretti, che gli americani difficilmente, dici, tranne che contenere l'ISIS, vogliono davvero distruggerlo. Però oggi Obama ha detto ad Hollande, quindi saranno i soliti interventi retorici, ha detto è un impegno comune il nostro nel distruggere l'ISIS. E anche Hillary Clinton, che è la principale candidata democratica per le prossime elezioni a Presidente degli Stati Uniti, ha detto: noi non vogliamo contenerlo, vogliamo distruggerlo l'ISIS, forse perché da più parti ricevono accuse, sospetti, però tu hai detto è ormai una storia palese questa. Ma certo, ma dopo la strage di Parigi e la paura che si è diffusa in Europa, tutti quelli che prima si nascondevano dietro un dito adesso dicono: bisogna distruggere l'ISIS, l'ha detto anche Erdogan. Ma Erdogan è stato quello che ha fatto passare migliaia di jihadisti dal confine turco, se ne parlava prima, credo, no? Cioè sì. Migliaia di questi foreign fighters che sono andati a combattere in Siria sono passati da lì, li abbiamo fotografati, intervistati, ma non oggi, 4 anni fa, signori. Ma allora questo veniva fatto in funzione di abbattere Bashar Assad, e su questo erano d'accordo anche i paesi occidentali, anche quella Francia che oggi è stata colpita al cuore, e anche quella Francia che è stata colpita al cuore mantiene legami strettissimi con Riyadh. Riyadh è il principale acquirente di armi della Francia. Quest'anno i francesi hanno salvato un'azienda nucleare loro, vendendo 12 miliardi di reattori all'Arabia Saudita. Ma certo. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Alberto Negri. Netanyahu oggi, il primo ministro israeliano, ha detto qui in Israele c'è lo stesso terrore che a Parigi. Ti sembra un paragone pertinente questo? Ma innanzitutto Israele è un paese che vive periodi di terrore ciclici notevoli. Io stesso a Gerusalemme, che una volta stavo andando al ristorante, è scoppiata la bomba, ti parlo di anni fa. Ma purtroppo abbiamo visto cosa succede. Poi adesso ultimamente c'era stata questa, c'è ancora questa intifada dei coltelli, no? Che semina altra paura, perché questa è una questione, un'altra delle questioni oscurate dalla Siria, dal califfato, eccetera, che è passata in secondo piano. Ma la questione israelo-palestinese è ancora tutta sul tavolo, come sono sul tavolo ancora le guerre, la guerra in Yemen, nessuno ne parla, ma l'Arabia Saudita compra armi per bombardare i ribelli sciiti in Yemen, non certo i covi di Al-Qaeda. Grazie Alberto Negri, così emergono continuamente tutti questi paradossi e si capisce anche da comuni cittadini, da persone comuni, perché l'ISIS è arrivato fino a questo punto e fino a dove ancora arriverà, di allarmi, di attentati anche chimici, batteriologici. Avete sentito oggi anche il primo ministro Valls. Alberto Negri, ci ritroviamo presto allora, ti ringrazio. A presto a tutti voi, buona serata. Ciao Alberto. Adesso ancora un messaggio fra i tanti. Maurizio Volpe da Udine scrive al 349-238-6666 a proposito dei timori, no? In base ai dati Istat che dicevano diverse sono preoccupazioni degli italiani a seconda delle regioni. Ciò che più mi preoccupa è la violenza diffusa, il disprezzo delle norme, specie sulle strade, il vantarsi di farla franca, il declamare la prevenzione per evitare la sanzione e tanto altro ancora. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricorderò le notizie più importanti, visto che c'è stata una pausa. Però intanto Roberta Giordano sempre con voi, con me il vostro ascolto paziente, spero interessato e attento, e anche i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia gli SMS invece al 349-238-6666. Abbiamo fatto un ritratto di Aboud, quello che è stato considerato la mente degli attentati, degli attacchi a Parigi, e non soltanto di quelli, che è stato ufficialmente dichiarato morto, ucciso ieri nel blitz delle teste di cuoio francesi nel quartiere di Saint-Denis. E dopodiché abbiamo parlato lungamente con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore, di questo rapporto così forte e di anni, insomma, così fortemente radicato tra Stati Uniti e Arabia Saudita, e non solo. Ci sono anche dei giri strani, paradossali, cioè gli Stati Uniti vendono per milioni di dollari armi all'Arabia Saudita, che è poi un sostenitore degli integralisti islamici, così come anche la Francia, però una grande venditrice di armi all'Arabia Saudita. E insomma, avete sentito quanti intrecci e come alla fine ci facciamo del male da soli, sembra di dire banalmente. Volevo leggere ancora alcuni dei vostri messaggi invece sul tema che avevo lanciato all'inizio, in base ai dati Istat, diverse preoccupazioni degli italiani a seconda delle aree regionali italiane. E dice questo ascoltatore: le preoccupazioni sono in molti, troppi giovani disoccupati, sfruttati e scoraggiati, stiamo minando il nostro futuro. Vi ricordo intanto quali sono le notizie più importanti della giornata. Sono appunto i nuovi blitz che ci sono stati in Francia, con l'ufficializzazione di Aboud che è stato ucciso ieri nel blitz, appunto nel blitz che c'è stato a Saint-Denis nel quartiere francese. E poi gli allarmi che si sono rincorsi, per fortuna sono risultati non fondati, a Milano, tra la metro di Roma e il metro di Milano, dopo che ieri sono stati dall'FBI è arrivato questo allarme su obiettivi sensibili anche in Italia, in particolare appunto nella capitale e nel capoluogo lombardo. Adesso però ci spostiamo, restiamo di nuovo su questo argomento, ma relativamente all'allarme del primo ministro Valls. Allarme allarme che riguardava il possibile uso di armi chimiche adesso per attentati in Francia come in altre zone d'Europa. Uno dei scenari potrebbe essere quello di un attacco in più punti con piccole dosi, ad esempio in una metropolitana, allo scopo di seminare il panico. Forse è un'esagerazione. Ne parliamo con Gian Andrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa e collaboratore del Sole 24 Ore. Buonasera Gian Andrea. Sì, buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori. Si parla come possibile arma chimica dell'iprite, iprite che non so bene che cosa sia, che potrebbe essere utilizzata con maggior... Gas mostarda, quello che venne usato dalla prima guerra mondiale, nelle trincee della prima guerra mondiale. Tu lo trovi possibile, cioè lo trovi fondato, anche se è difficile fare delle previsioni, abbiamo visto, sia per inadeguatezza a volte dei servizi segreti, sia perché l'imprevedibilità per l'appunto è imprevedibile, quindi... Lo stesso Valls è sembrato un po', ha fatto un annuncio un po' strano, prima ha parlato di questo rischio, poi ha detto ma no, non ha circostanziato il rischio dicendo beh da questa gente ci si può aspettare di tutto, il che insomma lascia un po' perplessi, perché se hai degli elementi per poter dire che capo del governo, insomma quindi dovresti avere le informazioni, se ci sono le dovresti avere, se hai motivo di temere che ci sia questo, valutare intanto di annunciarlo questo rischio e darci dentro per recuperare eventuali presenze di armi del genere a Parigi. Se invece non ne ha idea, magari non è il caso di aggiungere panico a ulteriore panico, queste sono anche valutazioni politiche. Diciamo che il rischio che ci sia un attacco di armi chimiche dipende dalla possibilità che hanno avuto quelli dell'ISIS di farle arrivare in Francia. Noi sappiamo, i rapporti lo dicono, che l'ISIS si è impossessato di una fabbrica di cloro in Iraq e qualcuno dice anche alcune delle vecchie scorte di armi chimiche, iprite, forse gas nervino, che avevano fatto parte dei vecchi arsenali di Saddam Hussein in Iraq e dell'esercito siriano di Bashar Assad in Siria, nei territori che l'ISIS ha occupato e nelle basi militari che ha occupato. L'ipotesi che possa riuscire a portarlo in Francia e usarlo, insomma, per ora riscontri dall'intelligence che si sappiano non ce ne sono stati in nessun paese europeo. In passato case del genere sono accadute, forse ricordiamo, è caso di ricordarlo, 20 anni fa, esattamente nel 95, la setta guidata da Shoko Asahara in Giappone, no? il Santone, che utilizzò gas nervino nella metropolitana di Tokyo, ammazzando un po' di persone, scatenando il panico. E, insomma, il problema è capire se qualcuno è riuscito a far filtrare dentro il territorio francese, europeo, armi del genere. Io penso che in questo caso, prima di dare l'allarme, è il caso forse di darsi da fare per recuperare armi del genere. Tra l'altro recuperarle, ma secondo te gli strumenti in possesso delle nazioni in Europa, anche della Francia, sarebbero adeguate nel caso di un attacco di questo tipo? Beh no, comunque noi abbiamo sia reparti di pronto intervento in tutta Europa, ce li ha, sia a livello di protezione civile che a livello militare, reparti in grado di intervenire con sistemi di protezione e soprattutto di curare coloro che possono essere sottratti all'uso di queste armi, almeno in tempo utile per salvarli. Insomma, il problema è che armi del genere, anche in piccole quantità, in ambienti chiusi, possono veramente fare molto male, ammazzare delle persone, ma soprattutto scatenare il panico. In fondo poi anche nell'immaginario collettivo l'arma chimica è sempre qualcosa di atroce, solo a pensarci, poi probabilmente ammasserebbe di più persone qualcos'altro utilizzato in altri contesti, ma io mi chiedo piuttosto che senso abbia lanciare un allarme del genere in una Francia che già è terrorizzata, in un'Europa che è già terrorizzata, senza avere poi degli elementi concreti da aggiungere. Cioè, un conto è dire abbiamo recuperato gas nervino che voleva essere utilizzato, che volevano utilizzare nella metropolitana, per fare un esempio. È un conto dire c'è questo rischio e da quella gente ci si può aspettare di tutto. È chiaro che ci si può aspettare, però tu dici importante avere delle prove concrete, altrimenti altro che psicosi, come abbiamo visto anche a Roma e Milano. Grazie intanto Gian Andrea Gaiani. A voi, a presto. Ciao Gian Andrea, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Chiede già dal 349-238-6666, esistono arabi o musulmani atei? Intanto se sono musulmani vuol dire che aderiscono alla religione islamica, all'Islam. Arabi atei sì, probabilmente ce ne sono, ma pare che siano proprio una stretta minoranza. Tra poco parleremo ancora di come si organizza l'Unione Europea, i paesi europei, dopo gli attacchi di Parigi. Poi parleremo anche del giallo di Brescia. Però prima vi ricordo velocemente le notizie più importanti. In Francia continuano le operazioni antiterrorismo, così anche nel resto d'Europa, ed è stato ufficializzato che Abaoud, alla mente degli attentati di Parigi, è morto ieri nell'assalto delle teste di cuoio al quartiere di Saint-Denis. L'allarme, il primo ministro Valls, il ministro francese, l'avete sentito, il rischio di armi chimiche e batteriologiche, per il momento un allarme generico. Tensione anche a Roma, Milano, falsi allarmi nelle metro per pacchi sospetti, e poi in Medio Oriente nuove vittime dell'intifada dei coltelli, due morti a Tel Aviv. Europa 24. Dopo gli attacchi di Parigi, quindi gli stati dell'Unione Europea si organizzano per intensificare le misure di sicurezza. Dopo gli attacchi a Parigi, l'Unione Europea si blinda e gli stati membri si impegnano ad effettuare necessari controlli sistematici e coordinati alle frontiere esterne, anche per i cittadini dell'area di libera circolazione. Questo è quanto scritto nella bozza di conclusioni del Consiglio degli Interni straordinario. Fiscal consolidation. Arriva la flessibilità per le spese eccezionali per combattere il terrorismo, ad annunciarlo ufficialmente il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che definisce gli attacchi di Parigi come atti di guerra compiuti in Europa e parla dell'ISIS come del nemico numero uno per l'Europa. La Francia ribadisce, il presidente della Commissione europea deve affrontare gravi atti di terrorismo e deve affrontare spese supplementari che non possono avere lo stesso trattamento delle altre spese rispetto al patto di stabilità, un principio che, ribadisce Juncker, deve valere anche per gli altri stati. François Hollande lo aveva detto lunedì nel suo discorso davanti alle Camere: la sicurezza viene prima del patto di stabilità, un messaggio che era diretto a Bruxelles e che è stato ribadito con grande chiarezza anche dal premier francese Manuel Valls. La spesa aggiuntiva preannunciata dal Presidente della Repubblica, e cioè 5.000 assunzioni tra gendarmi e polizia, oltre a un congelamento dei tagli all'esercito previsti, comporterà lo slittamento del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del deficit sotto il 3% entro il 2017. L'apertura alla nuova flessibilità arriva anche per voce del commissario europeo all'economia Moscovici, che ha ribadito una cosa chiara: nelle circostanze attuali, in questo momento terribile, la sicurezza dei cittadini in Francia e in Europa è la priorità assoluta e la Commissione europea lo capisce pienamente. Varrà dunque lo stesso criterio di flessibilità che era stato adottato per i migranti. Si tratta di un passo molto importante, sottolinea Giovanni Lavia, eurodeputato del Partito Popolare Europeo. È il primo passo di un lungo processo che dovremo fare per avere una difesa comune e una politica estera comune. Quelli sono gli obiettivi. Per arrivarci dobbiamo passare anche da passi come quello di socializzare con delle clausole di flessibilità la spesa addizionale legata alla lotta antiterrorista. L'Italia, tra l'altro, è uno dei paesi più chiamato in causa rispetto a questo argomento, così come fu per il tema dell'immigrazione. Non c'è dubbio che l'Italia, sia pure da questo punto di vista in misura minore alla Francia, ma con l'imminente avvio del Giubileo dovrà fare degli sforzi straordinari, e questi sforzi straordinari vanno scorporati dal patto di stabilità. Dobbiamo difendere e dare certezza e sicurezza alla nostra popolazione europea, ai nostri cittadini italiani, e questo lo possiamo fare con un'azione forte e preventiva. Se questo ha un costo, non può essere computato nell'ambito del patto di stabilità. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus. Per chiudere invece il giallo di Brescia, in realtà di Marcheno nel bresciano. Sapete che nei giorni scorsi, dall'autopsia sul cadavere di Giuseppe Ghirardini, l'operaio della fonderia Bozzoli di Marcheno, trovato morto in Val Camonica il 18 ottobre scorso, cioè 10 giorni dopo la scomparsa del suo datore di lavoro, l'imprenditore bresciano Mario Bozzoli, sapete che è emerso che è morto avvelenato da cianuro. Oggi però si apprende che quel cianuro era contenuto in un involucro molto particolare. Lo chiediamo ad Andrea Cittadini, che è giornalista di Giornale di Brescia. Ciao Andrea, che stai seguendo questa vicenda. Sì, buonasera a voi. È l'ennesimo colpo di scena di questo giallo che ormai si trascina da oltre un mese. Questo corpo, che aveva una forma strana, nessuno riusciva a dare una descrizione, abbiamo scoperto essere un'esca anni 70, nel senso che dagli anni 70 che non è più in commercio, anzi è addirittura fuori legge. All'interno c'era un'anima in cianuro e all'esterno, secondo i RIS di Parma, ci sarebbe questo involucro fatto con un materiale friabile e simile a borotalco. Un corpo davvero molto molto molto particolare. Restano ancora i dubbi, perché l'inchiesta è aperta in questo caso per induzione al suicidio. La Procura di Brescia lavora in particolare sul suicidio, però diventa sempre più strano pensare che una persona possa andare a uccidersi ingerendo un manufatto di queste dimensioni, 3 centimetri di larghezza, di diametro per 4 centimetri, molto elaborato tra l'altro come manufatto. Cioè è stato trovato così intero con queste dimensioni? Sì, Andrea, è stato trovato così intero con queste dimensioni. È difficilissimo ingerire una cosa del genere. Sì, ha la forma di un'esca. Allora, possiamo dire che in procura a Brescia in queste settimane inizialmente è stato descritto come una cozza, poi una molto cozza, simile a un tortellino, insomma siamo andati in quell'ambito per descriverlo, e poi oggi è emersa appunto questa fotografia. Diventa difficile davvero pensare che possa aver fatto tutto da solo. Sì. Gli inquirenti ne sono convinti, dubitanti ne ha invece l'avvocato dell'ex moglie di Ghirardini, continua a ripetere: io non credo al suicidio. Beh, diventa sempre più difficile crederlo, come dici anche tu, Andrea Cittadini. Ci saranno nuovi sviluppi, li attendiamo, perché davvero è un giallo nel giallo incredibile. Poi ci sono queste ombre anche sulla famiglia, insomma, però tutto ancora da valutare. Grazie Andrea Cittadini del Giornale di Brescia. Buon lavoro. Buona serata. Ciao, ci risentiamo noi alle 22.